Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Ora io mi trovo in un certo imbarazzo. Dovrei celebrare questo matrimonio, ma con quale consapevolezza? Con quale coscienza? Quella dei loro sì? E quanti saranno adesso lì a rispondere? Due sole? O quattro, sei, otto, dieci, cento, mille? Qualcuno lo aveva immaginato, ma di certo un fulmine è arrivato questo fine settimana. C'erano in programma 5.000 solo tra matrimoni e poi cerimonie, comuni e battesimi, eventi annullati all'ultima ora, soprattutto per quanto riguarda i matrimoni, per le norme di sicurezza o limitati a pochi intimi dopo il decreto del governo. Feste consentite fino ad un massimo di 30 persone. Ben ritrovati da Anna Migliorati. E pensate un po' a chi all'ultimo ha dovuto prendere la lista degli invitati, tracciare una riga sui nomi e, prendendo il telefono, informare chi tra oggi e domani resta a casa. Beh, effettivamente il matrimonio è un fatto privato. Riguarda soltanto loro. C'è il brindisi, c'è il pranzo, noi siamo qui per festeggiare. Il matrimonio è un fatto privato. E allora devo chiedervi un grande favore. Uscite. È il loro matrimonio. È il loro deve essere. Oh, chiaramente poi ci vediamo, no? Si brinda, si canta, si parla. Dopo. Me ne ha preparato della roba, però adesso lasciamoli su. Accade anche questo nell'anno del Covid. Numeri ma anche storie, come sempre facciamo allora. Non solo il DPCM ha cambiato i matrimoni di questi tempi, di fatto erano già cambiati in questi mesi. E allora saluto Nicola Candidi, thepopquestion.it, che di matrimoni si occupa ormai da anni per mestiere. Benvenuto. Grazie a lei, buongiorno. Sono più di 10 anni ormai che siamo in questo settore, l'abbiamo visto un po' cambiare nelle mode, nelle tecnologie. Adesso abbiamo visto cosa succede con il Covid. Abbiamo lanciato una cosa con le follower di Instagram giocando proprio sull'autunno, dicendo che l'autunno è la nuova primavera. Però quello che cambia principalmente è l'incertezza sulla data, che il matrimonio è diventato un evento last minute in questo momento e quindi bisogna, diciamo, assisterlo con il digital. Quindi magari puoi aggiungere alla partecipazione l'invito digitale che ti permette in un secondo di cambiare la data. Ti invito, poi quando è te lo faccio sapere via digital. Esattamente, diciamo ti invito e la data dovrebbe essere questa e poi magari altre informazioni arriveranno nel tempo o se qualcosa è cambiato te lo faccio sapere via digital. Ecco, un'altra cosa che mi colpiva appunto era la torta, dalle enormi torte, perché ovviamente centinaia di invitati, alle piccole tortine. Monoporzione, perché ci hanno levato anche il buffet, giustamente. E certo, il taglio della torta come si fa? Adesso abbiamo visto che una tendenza è proprio quella di avere già torte monoporzione, cioè in qualche modo si evita il momento del buffet, quindi si viene già dato il piattino con la torta in piccola porzione. Poi nei momenti di difficoltà magari viene fuori anche la voglia di inventare. Sì, altre curiosità, beh, io vedo che essendo il numero ristretto molte spose stanno usando di più, magari avevano anche un budget a disposizione, adesso avendo il numero ristretto possono giocare di più. Spendo di più per il vestito, per gli inviti, per la torta, invitando meno persone. Se il budget rimane quello, magari si riduce un pochino, magari prendono più accessori preziosi, la cera lacca, il nastro di seta, magari scelgono una carta più preziosa. Prima dovevi fare 200 inviti, adesso magari ne vai a fare 30 e quindi ti permette, diciamo, di farli più lussuosi, tra virgolette, più con qualche sfarzo in più. Diciamo, non ci è passata la voglia di sposarci in modo tradizionale con questo Covid, cioè magari rimandiamo. Qualche accorgimento in più, qualche moda diversa, anche più semplicità abbiamo letto, è vero? Assolutamente, più semplicità, perché secondo me, e quindi magari nel vedere questa data rimandata, l'evento fosse cancellato, ci ha anche fatto apprezzare di più, come dire, l'importanza del gesto e quanto volevamo farlo. L'elenco degli invitati potrebbe cambiare, non si sa bene la data, eccetera. Magari il giorno prima, la settimana prima dell'evento, si va a scrivere a mano quindi una tecnica che forse era un po' abbandonata, adesso ritorna in auge, a scrivere a mano degli ultimi dettagli, proprio perché la scrittura a mano ti permette di farlo davvero last minute. Ecco, questo è successo di giorni fa, una sposa ci ha detto che appunto una serie di persone, un'intera famiglia, un gruppo familiare non è potuta venire all'ultimo minuto, gli ha creato un buco del tavolo. Ora, che magari in passato quella famiglia sarebbe stata stizzata dicendo mi hai creato un danno, adesso poverini non è assolutamente colpa loro, e tutto è invece last minute, cioè è diventato un evento last minute. E adesso abbiamo ricevuto ordini a ottobre per matrimoni di novembre. Potremmo fare lo smart wedding, io del modo di lavorare da working a smart working, potremmo giocare con lo smart wedding. Last minute o proprio nulla, visto che più di 5 milioni di famiglie, dicono i dati, il 27,6% dei nuclei familiari italiani, poco più di uno su quattro, hanno dovuto annullare i festeggiamenti in questo 2020, anche se avevano già sostenuto in parte o addirittura in tutto i costi in primavera. La percentuale sale al 32,8% nel sud e nelle isole, arriva al 35,7% tra le famiglie con quattro o più componenti. Vale per feste di compleanno, che siano di bambini o di adulti, previste in sale e prese in affitto. Il 13,7% delle famiglie italiane è stato costretto ad annullarle e più della metà non è riuscito ad ottenere un rimborso. Oltre 1,1 milioni di famiglie erano coinvolte in matrimoni che gli sposi sono stati costretti ad annullare, ma oltre al danno hanno subito anche la beffa, visto che quasi 3 su 10 non hanno avuto alcun rimborso. E anche se la sicurezza viene prima, lo ripetiamo sempre, vale sapere quanto vale. Facciamo i conti. C'è un'economia anche attorno a questi eventi della nostra vita. I frigoriferi, per esempio, in questo fine settimana erano già pieni. Nei luoghi dove si doveva festeggiare, qualcosa si riciclerà, qualcosa si butterà. E allora saluto anche Serena Ranieri, presidente Federmep Matrimoni ed Eventi Privati. Buongiorno a voi. Sarebbe esilerante se non fosse tragico la situazione. Pensare a questi sposi 2020 nel futuro sarà sicuramente una sorta di imprecazione. Se come uno sposo del 2020 cioè, ti sei trattato proprio male. Gli sposi del 2020 sono stati più fortunati di sempre. Hanno avuto una prima batosta nel primo lockdown, dove si sono visti piano piano sfumare l'opportunità di festeggiare e soprattutto di godersi i preparativi. Quando poi ci hanno aperto dal lockdown abbiamo continuato a non poter festeggiare anche giugno, quindi tutti quegli sposi lì hanno dovuto Quanti avere sono? Delle protezioni, sono tantissimi, perché in Italia ogni anno si stima che si festeggino all'incirca 500.000 matrimoni. La perdita è enorme perché sono 50.000 aziende, sono 300.000 tra dipendenti, lavoratori fissi e stagionali. Gli ultimi dati che noi abbiamo dato erano circa 65.000 matrimoni cancellati. Sì, in realtà più o meno quello è il numero dei cancellati in generale, se sommiamo anche insomma questi delle vittime dell'ultimo decreto, ma a questi matrimoni, a questo numero, quindi 60-65.000 matrimoni, dobbiamo anche sommare tutte le feste di altra natura, come possono essere battesimi, comunioni, che sappiamo essere comunque feste molto importanti per tutto il comparto e che più o meno sono il triplo di questo numero, quindi arriviamo a cifre di annullamenti enormi, con una perdita di 20 miliardi di euro stimata. Pensi soltanto ai 500 milioni che sono i destination wedding, ovvero sono i matrimoni di stranieri in Italia. 500 milioni di euro è soltanto l'indotto. Ecco, perché diretto. Il nostro paese ha anche questa certo. caratteristica, c'è chi vuole certo. venire a sposarsi in Italia e questa è pura economia per il nostro paese, puro guadagno. Non vengono soltanto per il matrimonio, chiaramente vengono per l'arte, per la cultura, fanno turismo, fanno shopping, vanno a vedere le piccole realtà locali, comprano dei souvenir. Sono numeri veramente importanti per tutto l'indotto turistico, che purtroppo quest'anno, ovviamente per i problemi Covid che sono internazionali, mondiali, non si sono insomma presentati, però l'anno prossimo c'è ancora molta incertezza. Chiediamo anche questo al governo, che faccia una buona politica di promozione di sicurezza all'estero, in maniera tale da avere, ecco, una possibilità nei mercati stranieri per l'anno prossimo. Da dove vengono per sposarsi in Italia soprattutto? Dall'Inghilterra tantissimi. Ultimamente il mercato indiano e il mercato arabo, le dico una cosa Anna, il 2019 era un anno di in fortissima crescita, il nostro settore aveva uno sviluppo di più del 30%, ma il nostro era veramente in grandissimo sviluppo, parlo dei matrimoni e delle feste in generale. Per tornare all'Italia, nel nostro paese tradizionalmente il matrimonio è sempre stata una grandissima festa al sud, meno al nord, è ancora vero innanzitutto? Certamente, assolutamente sì, io sono in Campania il matrimonio era... è una religione, se posso esprimermi così, si parte da anche 2 anni prima ad organizzare, si fanno ancora matrimoni da 500 persone, infatti ci sono location che sono adeguate a spazi enormi, a numeri importanti. E chi ha deciso 2 anni fa? Che fa? L'ha rimandato e purtroppo temo lo rimanderà ancora, perché non è pensabile per un pugliese, per esempio, un siciliano, ma anche appunto un campano, fare un matrimonio da 30 persone. Sulle piattaforme Zoom non funziona? No, decisamente no. Qual è il budget che normalmente si spende per un matrimonio? Ah, ma invece il budget più o meno è simile, perché quando si hanno tante persone, insomma, i fornitori sono abituati a non far arrivare a cifre esagerate. Invece al nord magari si spende di più in tutto quello che sono i servizi complementari, si fanno degli allestimenti ricchissimi, si fanno insomma dei servizi in più, e quindi il budget orientativamente è intorno ai 40.000 euro, 35-40.000 euro per un matrimonio. Oramai per i matrimoni, i destination wedding sono molto più alti. Chi si è sposato in questo 2020, a cosa ha rinunciato all'interno di questo budget? Ha rinunciato certamente all'impatto coreografico del matrimonio, perché dovendosi adattare a distanze e a tavoli rotondi, a tavoli più piccoli, familiari, quindi gli sposi si sono dovuti riadattare a un matrimonio un po' antico, quello tradizionale, quello con i tavoli rotondi, e hanno dovuto rinunciare ai balli, hanno dovuto rinunciare secondo me alla parte più bella di un matrimonio, perché un matrimonio, ricordiamocelo, è una festa, quindi non c'è niente di più bello che liberarsi dei tacchi a fine serata e abbracciarsi con tutti quanti amici e parenti. Sono rinunce importanti che hanno fatto i nostri sposi nel 2020, sono veramente eroi, ecco, una medaglia gli ci vorrebbe. Grazie allora, a me non resta che salutarvi. Alla prossima storia, alla prossima Piccola Economia, vi aspetto anche sul nostro sito radio24.it, l'economia delle piccole cose. Un saluto, un buon fine settimana da Anna Migliorati. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.